Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qui in questo venerdì. Venerdì, però si lavorerà anche domani. Comunque è venerdì, sì, 8 di luglio. Siamo in diretta. Sì. Continueremo in diretta anche dopo le 9, così yes. Per tutto il mese di luglio. 8 luglio, tra gli altri santi del giorno, Sant'Ampello, è un vescovo di Milano, il tempio dei Longobardi, e mi piace ricordarlo perché il suo nome in greco vuol dire uva, e infatti era chiamato così perché faceva delle prediche che erano considerate all'epoca, penso, stiamo parlando di Sant'Ambrogio, come il vino, se ne inebriavano tutti, e quindi per questo Sant'Ampello. Dopodiché, tra gli altri santi di oggi, le varie sante Gliceria, Auspicio, Santo Auspicio, ci sono due santi legati alla memoria dell'Enel, perché oggi è Sant'Illuminato di Rieti da una parte e San Lorenzo Illuminatore dopo. E la chiesa vedeva lontano anche quando non c'era l'energia elettrica. Oggi che cosa si ricorda? Per te che sei un tennista, nel 1887 nasceva il torneo di Wimbledon. Ah, oggi proprio. Pensa un po', nel 1887 e nel 1970 oggi la Germania diventava campione del mondo battendo l'Argentina, ma ieri sera non è andata non esattamente è andata così. Io pensavo vincessero 3-1, ho detto Germania 3-1 convinto. E invece i blu ce l'hanno fatta. 2-0. E tu sei... No, sei... No, io tenevo la Germania. Tenevi la Germania. Ah, tenevi, io credo temevi. No, temevo, no. Mi era più simpatica, ma in maniera distratta. Sì, così. Chi così. Se ne frega. Allora, caro Oscar, noi avremo ospite due giornalisti, Gianluigi Nuzzi, uno dei due assolti dal Vaticano, dopo la vicenda, e Massimo Giannini, colui che invece dice sono stato rottamato alla conduzione di Ballarò. Di Ballarò, che chiude con la nuova versione della RAI che dipende da Palazzo Chigi. Eccolo lì, la frecciatina. No, per legge, la riforma è tale per cui non era così prima. L'amministratore delegato è nominato dal governo e ha tutti i poteri, quindi non credo di forzare giornalisticamente dicendo che dipende da... Poi parleremo anche di legalizzazione delle droghe leggere, perché c'è questo dibattito dalle 9 alle 9.30, però sullo sfondo c'è la vicenda di Fermo. C'è la vicenda di Emanuele. La vicenda di Emanuele. Ora sui giornali c'è questa versione che rispetto alla prima versione, cioè passavano di lì, sono stati aggrediti brutalmente con anche un palo della segnaletica stradale, la versione a cui tende a credere anche la polizia è che sia partito questo insulto razzista, scimmia, rivolto alla moglie. Esatto, da qui una rissa che è degenerata e poi il pugno fatale evidentemente in confronto di Emanuele. Però il dato di fatto, cioè, voglio dire, mai letto, Oscar, i racconti di questa persona? 5 DASPO, cioè divieti di andare allo stadio. Il fratello che dice, ma lui in genere tirava noccioline quando vedeva un negro, testuale. No? Così, perché è un giocherellone. Ha avuto d'altronde una vita difficile. Cioè, vogliamo partire che questo, cioè, la miccia, l'elemento scatenante è stato questa cosa qui? Ecco. Direi di sì, perché altrimenti si finirà per dire che è morto incontrandosi per caso con la mano di chi l'ha ucciso. Detto questo, ieri quello che mi ha colpito durante tutta la giornata e già in realtà dal pomeriggio precedente è stato l'accendersi nelle reazioni degli ascoltatori, di chi legge quello che scriviamo e così via, di una classica cosa che mi preoccupa molto e che in Italia secondo me in questi anni, almeno per chi fa il nostro mestiere, è diventata sempre più evidente, cioè l'accendersi di un confronto tra due campi a toni estremissimi. Sì. Perché quello che si manifesta è che molta gente dice avete condannato prima di capire, prima di sapere, solo perché è morto un nero, un nigeriano, è un italiano che ha reagito, e da una parte chi si augura a quel punto bisogna oppure fare così, tirano in... e ricordate Cabobo, quello ecco. È un nero che ha ammazzato i bianchi, ma come, cioè, se, dire, come se ci fosse questa la contabilità, battaglia, ecco, questa occhio battaglia. Per occhio, dentro per ecco. Dall'altra parte chi ovviamente a propria volta tende ad accumulare il giudizio su tutti, ecco, queste sono le classiche cose da evitare, se no si finisce come a Dallas. Ecco, perché noi stiamo parlando tranquillamente, ma a Dallas, come abbiamo raccontato, come si sta raccontando il giornale radio, c'è una rivolta per le uccisioni di due afroamericani nel giro di due giorni e ci sono dei cecchini che hanno sparato uccidendo quattro agenti uccisi, sette feriti, c'era una veglia di protesta contro la polizia. Quindi adesso non esageriamo, noi non siamo gli Stati Uniti, no. Fai bene a richiamare, ecco, però ricordatevelo tutti, anche che siete in ascolto, che il fatto che sia stato un ultras, il fatto che abbia avuto più DASPO, un violento di natura, problemi nella evoluzione della sua vita, in ogni caso non giustifica in nessun caso il fatto che poi appunto ha ucciso il nigeriano o gli ha insultato la moglie. Detto questo, riflettiamo sul fatto che è meglio che l'Italia culturalmente si attrezzi a diffondere una cultura per cui episodi di questo tipo non devono avvenire da parte nemmeno dell'ultimo, come devo dire, che ha vita problematica, perché altrimenti la vostra reazione, cari ascoltatori, da sola indica che poi si diffonde qualcosa che creerà altri problemi ancora più gravi. Questo è quello che io mi sento di dire, non faccio lezione a nessuno. Oh, certo, comunque se volete dirci cosa ne pensate di tutto quell'episodio in maniera molto libera, in maniera molto serena e pacata, 800 24 00 24, chiamateci e ditecelo. Io voglio far sentire, caro Oscar, quello che ha detto Cecil Kieng, detto che secondo me è sbagliata anche la reazione di dire, Gad Lerner lo ha detto, ci vorrebbe Cecil Kieng tornasse ministro, ma no, ma è una questione culturale che ha radici più profonde, che non è mettendo un'icona, un ministro di pelle nera, no, che questo non è la vincita di una partita, esatto, la morte di un nigeriano, ecco come devo dire. Però Cecil Kieng dice questo sulla scorta, no? Sentite. Molte volte io mi interrogo e mi chiedo se non avesse la scorta cosa mi succederebbe, visto che anche un mese fa ho subito un'aggressione. Lei dice, visto che un mese fa, dice Cecil Kieng, ora eurodeputata, ho subito un'aggressione senza la scorta, che succederebbe? Cioè troverebbe quello che, perché è un giocherellone, come dice il fratello, si divertirebbe a buttare noccioline al passaggio di Cecil Kieng. È molto delicato, perché la vicenda della Kieng, sai cosa vuol dire, perché evoca naturalmente uno scontro politico con la Lega, significa tutto. Quelli militanti della Lega che reagiscono automaticamente, ecco, nel mondo ideale, quello da cui in cui l'Italia però è appartenuta per decenni, quindi fa parte della nostra cultura, ecco, nel mondo ideale la politica non evocava scontri a catena sul colore della pelle. Io mi limito a dire quello, io non sono nostalgico mai del passato, ma quella però è una civiltà che difendo. Non quando i partiti iniziano ad avere icone contrapposte che scatenano i due campi reciproci nella mutua demonizzazione, incentrati sul colore della pelle del tuo esponente, aia aia, io mi preoccupo. Vogliamo sentire anche un altro politico che ha suscitato un po' di clamore, intervenendo al Senato, Giovanardi, siccome nel linguaggio ha posto dei distinguo, vedremo, insomma, è stato poi subissato da fuori da reazioni dell'Aula. Presiedeva la Lanzillotta. Io non so cosa è successo ieri. Poi impareremo e approfondiremo l'accaduto e può essere verissimo che un balordo ha fatto una cosa terribile, ma trovo sgradevole. Ma forse il balordo, forse aver detto solo balordo, l'Aula è sembrata che minimizzasse. Eh sì, è sembrato che minimizzasse, non so cosa è successo. Dopodiché l'Aula è anche insorta, perché bisogna contestualizzare, perché lì si interveniva solo per associarsi, certo, per espressioni di associazione alla mozione che era quella di solidarietà alla famiglia. Lui l'ha fatto invece in dissenso, tant'è vero che vedi all'inizio lo ascoltano senza, di fronte quando lui inizia a minimizzare allora è esploso il casino. Devo dire che mi ha colpito l'anzilotta, gli ha levato la parola. Sì, questo sì, gli ha non levato la parola. E anche questo non so se sia giusto, no, detto, perché io a quel punto difendo il diritto di Giovanardi di parlare. Assolutamente però. No, questo infatti toglie la parola, la richiamo due volte, lei non ha la parola. È passato al prossimo iscritto. Senatore Giovanardi, la prego di interrompersi. È stata perché? Data. Senatore perché? Giovanardi, la richiamo all'ordine, non ha la parola. Senatore Carraro, prego. Sì, è passata. Perché formalmente, siccome ha detto qualcosa quello di sconveniente, però se tutti i politici devono ricordarsi che la misura è necessaria per impedire di suscitare reazioni a catena nei propri campi contro quello dell'altro, anche la Lanzillotta ieri secondo me non dava una mano in questo senso. Sentiamo gli ascoltatori che ci chiamano all'800 24 0024. Manuela ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Manuela. Sì, buongiorno. Io molto brevemente volevo intervenire per denunciare il crescente clima di razzismo che ormai da 20 anni è alimentato dalle forze di sinistra e in particolare da quest'ultimo governo di sinistra nei confronti degli italiani. Quindi qui il problema non è più il presunto razzismo degli italiani nei confronti degli stranieri, ma io porrei il problema del razzismo dei governi di sinistra nei confronti degli italiani. E non capisco per quale motivo, quando un italiano uccide un nero, si grida razzismo e addirittura il ministro dell'interno accorre, e quando i cittadini italiani vengono uccisi, massacrati, picchiati addirittura nelle loro case, allora beh, è un disagio sociale. Scusi Manuela, no, non è disagio sociale. Scusi, uccidere una persona dopo avergli gridato scimmia, secondo lei è uguale uccidere una persona per, non so, una rapina? Cioè, no, dal punto di vista del razzismo come matrice, nessuna, che ti spinge, non c'è nessuna differenza. Ma certo che è un omicidio, ma voglio dire, il razzismo c'è in un caso e nell'altro no? No. No. No, no, no, e non capisco per quale motivo, ripeto, quando gli italiani vengono massacrati nei loro negozi. Ma questo l'ha già detto, l'abbiamo capito. Vede, allora anche lei fa dei distinguo, allora anche voi fate dei distinguo. Faccio una distinguo sulla matrice razzista, ne faccio un distinguo anch'io. Anch'io non distingo tra un omicidio e un omicidio, ma faccio un distinguo tra la matrice razzista. State già cominciando a fare dei distinguo. Signora, allora se viene ucciso, noi non è che cominciamo a fare dei distinguo sulla matrice razzista, altrimenti. No, cosa facciamo? Diamo solo semplicemente, le riconosciamo che lei ha ragione, ci inchiniamo. Per lei non esiste una questione di dire scimmie. No, per noi per me però esiste, è andata così. E siccome per noi invece è un sintomo molto preoccupante di allarme. Allora, innanzitutto io vorrei capire perché questa persona già segnalata come violenta, come sempre in Italia, perché le persone segnalate come violente non vengono messe in carcere, perché la giustizia catto comunista impone di rieducare queste presunte vittime della società. Quindi qui abbiamo un problema enorme. Non aveva reati, signora, si fermi. Aveva 5 DASPO. Sa cos'è il DASPO? Perfetto, adesso il reato l'ha commesso, siete tutti contenti? Io francamente no, secondo me era meglio se stava in galera prima. Comunque prima, Minority Report. Per me non c'è un problema di razzismo nei confronti degli stranieri, ma oggi come oggi, anno domini 2016 dopo Cristo, c'è un problema di razzismo da parte della sinistra italiana nei confronti degli italiani. Va bene, che si chiama oicofobia, questo oicofobia è il problema per me. Grazie, questo è il problema. Va bene, sì, l'ha detto, come vede, anche se in maniera un po' concitata, ma... Insomma, va bene, grazie Emanuela. Tiziano dalla provincia di Venezia Mestre, buongiorno Tiziano. Deve spegnere la radio, però c'è un eco insopportabile. La spengo, ok, mi sentite? Bene. Sì. Buongiorno, allora, il compianto Funari faceva un distinguo continuo e costante tra quelli che sono i giornalai e quelli che sono i giornalisti. Allora, prima di tutto una cosa, io non credo che le cose siano andate come ci viene propinato dall'informazione di regime, non ci credo minimamente. C'è un super testimone, e la testimonianza è su Facebook e sono sui vari social, c'è una super testimone che dice che le cose sono andate completamente in maniera diversa da come è stato detto. Quindi non è affatto vero. Secondo quello che dice questa super testimone, ribadisco, dice che la persona, questo personaggio che ha ammazzato, che comunque è sempre una tragedia e andrà condannato, e su questo non si discute minimamente, è stato prima insultato lui, aggredito lui, e lui poi ha fatto Tiziano, guardi, allora, un attimo, fermo, a me non me ne frega assolutamente Tiziano, nulla. Se lei viene qua per dialogare, bene. Se deve venire qui per dire la sua in maniera dittatoriale, vuole dialogare? Accetta di dialogare, Tiziano? Certo, ma un secondo allora solo si fermi... che finisco. No, si fermi un attimo. Finisco. Si fermi un attimo. La versione che lei ha detto, anche oggi gli inquirenti, la procura, la polizia, è propensa a credere che sia andata così. Passavano, così come? Glielo sto spiegando, passavano... Questa persona gli ha detto scimmia. Per quel punto gli ha detto scimmia? Perché è un razzista! Ma non ci credo assolutamente, figuriamoci. Allora, tu per strada vedi un negro e gli dici scimmia, così senza alcun motivo. Va bene, Oscar, io mi fermo se vuoi tu dire qualcosa. No, ma lei ha visto anche sui media le testimonianze su il precedente di questo dell'assassino, cioè sul fatto che gli sia capitato più volte di rivolgersi così a extracomunitari, che allo stadio diceva, ma allo stadio noi gli tiriamo le noccioline e così via. Adesso io, guardi, media di regime, io mi limito a dire che di testimoni, come riportano tutti i media, li stanno sentendo tutti, non ce n'è uno super e gli altri no. Io inviterei tutti a non sposare, secondo il vostro punto di vista, la ricostruzione dei fatti. La ricostruzione dei fatti la vedremo giudiziariamente. Dopodiché, come hai visto, Alessandro, basta aprire i microfoni per capire che l'atmosfera in Italia su episodi di questo tipo non è più quella di anni fa. Stefano ci scrive da Fermo, ha scritto per la verità alle 6.30, qui a Fermo lo conosciamo tutti quel tizio, cioè quello che ha aggredito. Si siede in piazza e quando passano gli extracomunitari li offende nei modi più diversi, prima o poi qualcuno avrebbe reagito. Questo è un messaggio che ci arriva da Stefano da Fermo. Luigi ci chiama d'Ancona, buongiorno. Buongiorno, io semplicemente prima di fare una considerazione vorrei proprio da chi fa questo mestiere una conoscenza specifica del fatto. Ancora non si riesce ad avere, questa mattina io seguo varie fonti di informazione, ognuno mette i suoi commenti, ognuno fa il suo tema da libro cuore, fa l'articolo in cui si tocca una corda emotiva rispetto ad un'altra, sulla punta di diritto non ha scritto nessuno niente. La punta di diritto, guardi, scusi, invece di pensare a cose, la punta di diritto se ne occuperà il processo, non lo sa attualmente neanche il magistrato. Quindi abbia pazienza, libro cuore, eccetera eccetera. Il nostro è un appello a moderare voi, è il contrario. Ah, non so se le è chiaro, l'appello che stiamo facendo è a moderare le vostre reazioni. Mi sembra un appello che non è mi perdoni, il libro cuore, il temino. Non riesco a dare un giudizio ecco, perché allora non lo dia. Non so i fatti, ma non so i fatti, nessuno, cioè siccome sono in tanti che fanno delle considerazioni, addirittura un guardi, ministro si prende Luigi, la bega, scusi, di parlare di razzismo e di prendere degli atti di provvedimenti urgenti nei confronti della moglie Luigi, rispetto ad altri che magari Luigi, stanno aspettando. La versione... C'è molta demagogia, la versione dei giornali, e che è la versione degli inquirenti, ripeto, e della polizia, ricostruite le varie testimonianze, sarebbe la versione più accreditata al momento, è quella. Passavano, questo tizio, questo Amedeo Mancini, in maniera gratuita ha insultato la donna, scimmia, quindi... L'uomo ha reagito, poi la situazione è degenerata in una rissa e nella rissa ha avuto drammaticamente la peggio. Questa è la versione al momento più accreditata. Cioè, se questa è la versione, se si fa finta che fosse passato senza avessi sentito dare della scimmia, come se non fosse la miccia scatenata. Il telefono dicendo voi non lo sapete, date giudizi, poi gli dai la versione e la risposta è prima e non ci credo. È un media allora... di regime. Allora è media di regime, la procura è di regime, la questura è di regime, i carabinieri di regime, sono tutti di regime. Mamma mia. Comunque chiamateci brutta su cosa, questo combustibile che c'è in giro è una brutta cosa. Eh sì. 800 24 00 24, mi sono arrabbiato anch'io giustamente, perché quando uno dice perché uno dà la scimmia a un negro, c'è un motivo razionale. Molti di voi in ascolto pensano che sia in atto una macchinazione di sinistra, pensate io in Milan, poi agli ordini di Palazzo Chigi del PD, non lo so, in cui vi stanno dicendo che è un delitto a matrice razzista, in realtà è la risposta eroica di un italiano contro il fatto che c'è troppa gente qui mandata rispetto a quello che sia giusto avere. E attenzione, più dite così, più dall'altra parte vi dicono che siete razzisti voi nel DNA e così via, più perdiamo la capacità di giudicare con freddezza una sola cosa. Qualunque siano i motivi che hanno spinto questo signore a Fermo, il suo passato, le sue tendenze, eccetera, eccetera, siamo tutti d'accordo sul fatto che non ci si ammazza per il colore della pelle? Ecco, io starei a questo. E che non si dice scimmia ora che passa, e che... testimone, il fratello di Amedeo Mancini, il fratello sentito dalla stampa, mio fratello è uno che quando vede uno di colore talvolta gli tira le noccioline quando passa. Il fratello di quello fermato gli tira così le noccioline, è un giocherellone, però è normale così per alcuni. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. 24 mattino. Allora, caro Oscar, eccoci qua. 8:42 minuti. Allora, abbiamo qui un assolto. Gianluigi Nuzzi, buongiorno. Ciao Gianluigi. Buongiorno a tutti voi, eccomi. Conduttore di Quarto Grado, ma insomma autore di Via Crucis e altri libri sul Vaticano e di Tiercare Lettere. Assolto. Ci sono resi un po' conto tardi che non ne avevano competenza per giudicare, però insomma va bene. Ma anche nel merito, Oscar. Sì, lo so, insomma. La sentenza è importante, insomma. Cioè, importante perché? Beh, importante perché non solo c'è un difetto di giurisdizione, come giustamente sottolineava Giannino, ma c'è anche una novità assoluta per i codici, le leggi, la magistratura vaticana, perché la Corte supera il codice del Zanardelli, che ha regolamentato i processi finora, e dice che c'è un diritto di stampa. E questo lo mette nero su bianco in nome di Papa Francesco. E questo possiamo dire, secondo me, per Nuzzi, Fittipaldi, eccetera, io glielo riconosco, è che entrano nella storia, perché effettivamente la sentenza di ieri fa fare un passo avanti storico alla giurisprudenza vaticana. Quindi... Ma è quel in nome di Francesco, nel senso che secondo te Gianluigi il Papa ha avuto anche una voce in capitolo, ovviamente non ufficiale magari sulla questione, in maniera sotterranea? Io sono convinto dell'autonomia dei magistrati anche in Vaticano, nella loro Camera di Consiglio, però insomma sono magistrati nominati, non è che c'è bisogno di un intervento del Papa per dargli un indirizzo. Hanno giudicato su una legge introdotta nel 2013 dal Santo Padre e hanno formato in autonomia una convinzione, una sentenza, ben recependo quello che è la sentenza anche nella Santa Sede. I giudici sono sempre interpreti, adattano sempre il codice con la loro giurisprudenza anche in Italia a quello che è il comune sentire, facendo anche degli errori magari. Credo invece che qui sia una fotografia millimetrica di questa nuovo corso che nulla a che vedere con quelle visioni oscurantiste che erano state espressioni della pubblica accusa. Però le condanne ci sono state, due condanne, no? Francesca Sciauchi e poi Monsignor Balda. Ma Monsignor Balda, fammi capire, va in carcere direttamente? Cioè perché... Ma lui è... in semilibertà, adesso lui ha 4 giorni per decidere se presentare appello, di fatto è in un regime di semilibertà da diversi mesi, quindi, ma lì insomma c'è un problema di tutela e di protezione del segreto. È evidente che chi è custode firma un patto di segretezza, un vincolo di segretezza. È chiaro che poi debba tutelarlo e proteggerlo, come noi giornalisti nel momento in cui troviamo e riceviamo delle notizie abbiamo il dovere di renderle pubbliche, insomma. Certo. Comunque, siccome mi è capitato di notare ieri che era l'anniversario del giorno in cui nel 1456 la Chiesa ha assolto Giovanna d'Archi, però 25 anni dopo averla fatta bruciare, Gianluigi Nuzzi e Fittipaldi se ne sono ricordati e li hanno assolti prima. I Giovanna d'Arco moderni. Ma dai, ci sono delle circostanze storiche che... Queste sono, le punte, le grandi provocazioni di Giannino. Non c'è bisogno di scomodare Giovanna d'Arco. No, però insomma mi sembra soddisfazione, perché la preoccupazione c'era, ma è soprattutto soddisfazione per una sentenza che a suo modo è storica, appunto. No, cambia. È storica, riconosco anche loro che il diritto, dovere dell'informazione è cercare i fatti, pubblicarli, renderli noti, e questa è la grande funzione, quindi viva Nuzzi. Come si diceva, non si processano i libri. Ma insieme a Gianluigi Nuzzi abbiamo chiamato un giornalista invece che insomma per sua stessa ammissione l'ultima puntata di Ballarola conclusa dicendo, insomma, parlando di rottamazione di fatto. Massimo Giannini, buongiorno Massimo, eccoci qua. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, che succede? Stiamo parlando ovviamente, c'è Gianluigi Nuzzi, di una vicenda diversa, ma Massimo Giannini, qual è l'umore che c'è adesso? Come sta, insomma? Ah, ti riferisci come ti senti? Alla vicenda di Ballarò? Intanto, alla vicenda di Ballarò. Intanto fatemi complimentare con Gianluigi Nuzzi e con Emiliano Fittipaldi. Sono veramente contento che la cosa sia finita così, e anzi mi viene quasi da dire che questa sentenza che arriva dalla magistratura vaticana dovrebbe insegnare qualcosa anche alla nostra politica, che molte volte guarda al giornalismo come a un nemico, no? Da tenere sotto controllo con la mordacchia, non si può pubblicare le intercettazioni, le leggi bavaglio e così via. Ecco, diciamo che stavolta la magistratura vaticana sembra più avanti della politica italiana. Detto questo, come ho detto più volte in questi ultimi giorni, io sono tranquillo, sereno, nel senso che mi sembra che l'epilogo della vicenda di Ballarò fosse già segnato fin dall'inizio. Ero abbastanza consapevole del fatto che il clima politico retrostante non era certo favorevole e non avrebbe verosimilmente portato ad un rinnovo del mio contratto e quindi a un prolungamento della stagione di Ballarò, che peraltro io stesso non avrei mai voluto, così come si è delineata in questi due anni. Sono il primo a dire che il format va cambiato e andava cambiato profondamente, forse già due anni fa, quando io ho preso in mano le redini di quel programma. A suo tempo non era stato possibile perché la RAI aveva intenzione di difendere il suo martedì, difendere quel brand e quindi anche di difendere quel format. Qualche cambiamento lo abbiamo apportato, adesso era ora di cambiare, io ero pronto a farlo, però sono state fatte scelte diverse. Rottamazione per l'appunto, però detto questo, nessun martiriologio, sì. Anche io non voglio fare la Giovanna d'Arco della situazione. Ma rottamazione di chi? Dell'azienda o della politica? Più? Questa è una domanda che è sempre molto insidiosa, no? Perché effettivamente uno potrebbe far la corte e dire vabbè, insomma, c'è stato anche qua una sorta di editto bulgaro. Sappiamo bene quante volte il presidente del Consiglio Renzi ha attaccato i talk del martedì, no? Facendo anche un'apologia di Rambo e dicendo che sì, fa più ascolti film, Rambo. Esatto, quel film che andava in onda è andato in onda per qualche martedì, faceva più ascolti di Ballarò e di martedì per l'appunto. Poi ci sono stati diversi interventi a gamba tesa, direi, di molti parlamentari del Partito Democratico in commissione di vigilanza. Sappiamo bene che è stato anche chiesto il mio licenziamento, quindi è chiaro che una qualche influenza, verosimilmente il clima politico, anche sulle scelte dei nuovi vertici RAI potrebbe averla determinata. Io ripeto, non la strumentalizzo, non mi faccio strumentalizzare neanche da chi immaginerebbe oggi pire santoriane che mi sembrano improprie. Io non sono santoro né per storia né per formazione e quindi non voglio rievocare una stagione che ormai è passata, però sarei un ingenuo se non vedessi il contesto, sì, nel quale certe decisioni sono comunque maturate. E secondo me, Alessandro, dobbiamo anche, io sento questo dovere, cioè noi come osservatori, siccome voglio dire, critichiamo da anni e anni sotto i diversi governi e le diverse coalizioni politiche come l'informazione pretende di rivolgersi, come la politica pretende di rivolgersi all'informazione e che uso fa della RAI, secondo me dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori il contesto in cui questo avviene. Il contesto è quello di un governo che cui leader aveva promesso nelle sue manifestazioni politiche per anni la cessione 2-2 Reti RAI e l'interposizione tra i partiti della politica e la RAI di una fondazione, guidando il governo ha dimenticato tutto quello che ha detto e ha varato una riforma approvata per la quale il capo azienda è indicato dal governo e ha poteri molto più pieni di prima. È in questo contesto che matura i nuovi palinsesti e la scelta dei direttori, cioè un contesto, cari ascoltatori, non c'entra il giudizio politico, la destra, la sinistra, nella quale la RAI è stata ricondotta direttamente a Palazzo Chigi. Questo è un fatto istituzionale, secondo me non è un passo avanti per il miglioramento del cosiddetto servizio pubblico, ed è in questo contesto che poi avvengono scelte come quella, Ballarò sì, Ballarò no, leviamo Tizio, leviamo Caio. Ed è comunque, siccome nessuno potrà dire il direttore di rete ha avuto l'obbligo per telefono a Palazzo Chigi, no, però la caratteristica istituzionale di questa azienda è molto mutata, e non so come la pensa Giannini su questo, ma per me è molto pesante questo dato da rilevare. Giannini, che dice? Oscar, come sempre hai fatto un quadro perfetto della situazione, non l'avrei saputa descrivere meglio di come abbia fatto tu. È esattamente questa la situazione, e come sempre succede poi, soprattutto quando si parla di RAI, di servizio pubblico televisivo, tutti i buoni propositi che la politica formula magari in campagna elettorale o comunque prima di prendere in mano le redini di un governo ed entrare nella stanza dei bottoni, vengono prese e gettate puntualmente al macero, perché poi alla fine la costante è sempre la stessa. Di fronte alla TV, di fronte a quella piattaforma informativa che poi si dice la TV generalista è in crisi, tutto quello che si vuole, però ha ancora una potenza di fuoco straordinaria, sì. E di fronte a quella potenza di fuoco la politica non sa resistere, non ce la fanno proprio, cioè, hanno bisogno di metterci le mani sopra in vario modo, con le formule più differenti, perché sì. Ripeto, dici tu giustamente, no? Rievocando appunto, come dicevo anch'io prima, l'editto bulgaro di Berlusconi, ma non c'è mica bisogno che qualcuno chiami al telefono da Palazzo Chigi per dire questo me lo cacci, quell'altro me lo sposti, ma no, non serve, ma non avviene così. Ma io vorrei capire da Gianluigi Nuzzi se ha un parere da un punto di vista diverso, tu che sei a Mediaset, competitor della Rai, ma privato, se hai uno sguardo insomma sul ruolo della politica e il ruolo dell'informazione televisiva. Gianluigi. Beh, insomma, fino a poco tempo fa non dobbiamo dimenticare che il direttore del TG1 veniva scelto, visto per stare in tema Vaticano, con il consenso di questo Stato estero. Cioè l'influenza della politica nella RAI c'è stata, credo che si stia solo apparentemente mitigando. In realtà i sistemi di potere della politica, la piovra della politica cerca sempre di avere una voce in capitolo. La storia di Giannini è esemplare, poi lui adesso elegantemente assume una posizione così anche per non parlare di se stesso e quant'altro, però insomma la storia sua credo che sia francamente irricevibile, insomma, in ogni sua interpretazione che si possa dare. Allora, noi facciamo così: ringraziamo intanto Gianluigi Nuzzi e Massimo Giannini. Ricordiamo Gianluigi Nuzzi, Via Crucis, l'ultimo libro, quello che è andato a processo. Così, insomma, del resto, la giustizia è così: c'hai gli assolti e c'hai i condannati. Sì, esatto. E Massimo Giannini, ex conduttore di Ballarò. Cosa c'è nel futuro di Giannini? Non si sa, Massimo. No, non lo so, adesso appunto con la RAI stiamo valutando se fare o non fare questo nuovo programma con grandi interviste, con i grandi protagonisti italiani e internazionali della politica e dell'economia. Stiamo un po' ragionando su questo, sì. Se ci sono le condizioni io sono ben disposto a farlo, però ci devono essere le condizioni. E poi insomma io vengo da 30 anni di carta stampata, quindi... È un passato che non solo non dimentico, ma che me lo porto. È un grande richiamo, richiamo della foresta. Insomma, quindi, vediamo. Speriamo di poter ancora scribacchiare qualcosa da qualche parte. Va bene. Grazie, in bocca al lupo, ovviamente, grazie anche a Massimo a voi di tutto. Giannini. Grazie. Che dire, Oscar? Non ci fermiamo, perché parliamo di. E anzi, quando torniamo io parlerò di una cosa che oggi non mi è piaciuta, dico subito, non mi è piaciuta, dei Gramellini, io lo leggo, sono di Torino, quindi la Busiarda, la Stampa, la leggo tutti i giorni, ovviamente dalla A alla Z, e non mi piace questa cosa, l'attacco ai triestini sulle tasse, Massimo, è un po' sbagliato, secondo me è un po' sbagliato, ma ne parliamo serenamente. Tra poco, e parliamo anche di droga, legalizzare le droghe leggere, tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi ha presentato 24 mattino. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Alessandro Plateroti. Dopo 5 sedute di attacchi speculativi sulle borse, la chiusura più tranquilla registrata ieri dai mercati ha dato un po' di respiro agli operatori finanziari, ma non ha certamente rimosso l'incertezza o attenuato le paure generate dall'uragano Brexit. In tempo di guerra non si butta niente, come sanno bene gli italiani, ma uscire dal rifugio è ancora sconsigliato. Troppe incognite restano irrisolte, dal futuro dell'Inghilterra senza Europa a quello di un'Europa senza Londra, la più importante piazza finanziaria dopo Wall Street. Finora, come si temeva, il prezzo più alto della crisi lo hanno pagato gli anelli più deboli dell'industria finanziaria europea, quindi soprattutto le banche italiane. Niente più della sicurezza del risparmio è in grado di generare fiducia o terrore tra gli investitori. Il crollo dei titoli bancari è certamente un amplificatore di incertezza. Ma si sa, la speculazione nasce dal denaro e cresce sulle paure. In questo senso, è bene che i risparmiatori italiani tengano presente che molto di quanto si è detto e sentito sul sistema bancario nazionale va oltre i confini del razionale. Le sofferenze bancarie deprimono il credito a famiglie e imprese, ma non sono certamente il detonatore di una crisi sistemica europea o addirittura globale. Anzi, a scatenare il rischio di tempesta oggi, come nel 2008, non è la crisi del Monte dei Paschi o del capitale di Unicredito, ma i rischi generati dalla montagna di derivati speculativi con cui le grandi banche inglesi, tedesche e francesi hanno gonfiato risultati di bilancio e riempito di denaro le tasche degli azionisti. Siena è un problema serio, ma più che dal Palio o dalla Madonnina, i rischi alla stabilità europea navigano sul Reno, sul Tamigi e sulla Senna. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar, ci chiamano ancora ascoltatori sul caso di Fermo. Ah, però aspetta, ci devi dire di Massimo Gramellini, ti ha fatto arrabbiare Massimo Gramellini. Ah, diciamo. E ha fatto sorridere, perché il classico riflesso condizionato di alcuni autorevolissimi colleghi, cioè il riflesso condizionato che io chiamo lo statalismo tassista, che non ha niente a che vedere, cari tassisti che ci ascoltate, con voi che conducete ogni giorno per strada i vostri clienti. No, è il fatto a Trieste c'è una protesta antifiscale, cioè c'è un certo numero di triestini, 229, che innestando sulla storia territoriale la protesta contro la cessione dei tassi, dice: noi consideriamo improprio pagare le tasse allo Stato italiano, e lo dicono pubblicamente, cioè, come non sfugge a nessuno, non è una congrega di evasori incalliti, di criminali eccetera eccetera, hanno inventato questa matrice territoriale e di merito sulle tasse, hanno inscenato una maniera per far parlare di sé, per attirare l'attenzione sul fatto che ci sono troppe tasse. Gramellini scrive oggi nella sua rubrica Il Buongiorno, prima pagina della Stampa, Triexit, una rubrica puntuta nella quale dice: eccolo qua il modo. Ah, voi non volete pagare le tasse, perché così... No, perché poi dice, sono quando gli altri in un ospedale, che devono pagarle per voi. Cioè, la solita, perdonami Massimo, la solita trita e ritrita risposta per la quale chiunque inventi maniere pubbliche, autodichiarate, per riflettere sulla rapina fiscale italiana, si deve sentir dire che vuole approfittare dei servizi pubblici pagati dagli altri, e quindi è un evasore, e quindi è un anarco-sociale, e quindi viene meno al patto sociale, eccetera, eccetera. Questa è bieca, infondata propaganda, perché auto-organizzarsi in maniera pubblica, Massimo, per riflettere sull'eccesso di prelievo fiscale, innestandolo anche su radici storiche e così via, è una maniera che invece tu dovresti ringraziarli. Stanno dando una mano all'informazione per far riflettere la politica, le istituzioni italiane sull'eccesso di pressione fiscale. Non sono anarcosociali, non stanno rapinando dalla tua tasca di contribuente, Massimo Gramellini. Forse, ecco, un pochino anche noi tutti dovremmo imparare a capire le iniziative dal basso della società, perché questa è un'iniziativa che serve a riflettere, capisci? Non sono una banda da incarcerare, però... Questa è la mia opinione, espressa con la stessa sincerità con cui Massimo Gramellini li ha accusati di essere evasori. Va bene, dai, andiamo a sentire. Guarda che ci chiamano su Fermo, ci chiama da Teramo, per esempio, Cristian. Cristian da Teramo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno signor Milan e signor Oscar Giannino, sì. Innanzitutto vi ringrazio perché mi tenete compagnia la mattina durante il tragitto di lavoro. E poi volevo sollevare questa idea che purtroppo questo razzismo, a mio avviso, è anche un po', se non stimolato involontariamente, nasce anche dal fatto che lo Stato non è in grado di far rispettare le regole. Le volevo raccontare un piccolo fatto che mi è accaduto ieri. Ieri sera, tornando a casa da lavoro, prendo il treno. Sì. Purtroppo dimentico di timbrare il biglietto perché, ahimè, ho 20 minuti per fare un tragitto di un chilometro. No, ieri sera dimentico di timbrare un biglietto. Sì, però non ci faccia la cronistoria, dai, Cristian. E che cosa succede di così? Che praticamente a me hanno fatto la multa quando c'erano 10-15 immigrati sul treno che tranquillamente non avevano nemmeno il biglietto. Capisco il fastidio. Fastidio, insomma, tutti coloro che erano all'interno del treno, bravo, gli immigrati. Cioè, spesso purtroppo questo razzismo viene anche alimentato dal fatto che le regole non vengono rispettate. Cioè, se vado in Germania, io ho gli stessi diritti di un cinese, di un tedesco, di un francese. Ah, ma è chiaro che se crolla, come dire, il patto sociale, poi si... Ok, Cristian, posso dire una cosa? Avendo un amico ferroviere a cui ho chiesto voi come vi regolate, lui fa i percorsi regionali la notte e quindi è proprio nelle linee esposte in Lombardia a questo tipo di rischio. Dice, il problema, anche se gli italiani, come è capitato a lei, credono che poi noi non chiediamo la messa in regola agli immigrati e se la prendono con noi, il problema è un altro, è che non ci sono gli dispositivi di sicurezza. Figurati, mi dice lui, se io non chiedo il rispetto dei biglietti agli immigrati. Il problema è che loro sono numerosi, io sono solo. Ecco, quindi, mi scusi, non è in questo caso il problema non è del ferroviere che si comporta in maniera tale da indurre giustamente gli italiani a protestare. C'è un problema di sicurezza complessiva, perché il ferroviere da solo non è in grado a quel punto di dare forza alla sua pretesa. Quindi, però non è una cosa di razzismo, perché lo chiede a me italiano e a lui no. Mi scusi, ma mi capita solo di conoscere appunto un ferroviere che fa un mestiere molto complicato su quei treni a notte. Come no. Allora, vogliamo parlare di un tema che si è riaffacciato sui giornali. C'è una proposta di legge in Parlamento, ma si è riaffacciato prepotentemente sui giornali perché il procuratore antimafia e antiterrorismo Roberti, andando in Parlamento, ha detto, in estrema sintesi, bisognerebbe legalizzare le droghe leggere per togliere, l'argomento non è nuovo, armi, cioè economiche, al narcotraffico internazionale, ai talebani, in Afghanistan e non solo. Oggi, tra l'altro, gli risponde il procuratore di Catanzaro, Gratteri, che dice no, non si legalizza una cosa che fa male. Non si legalizza. Uno Stato non dovrebbe legalizzare un qualcosa che è appurato, fa male. La e droga. I due magistrati hanno finito per rappresentare i due corni storici le tesi che si affrontano su questo tema. Insieme a Marco Cappato, che è presidente dei Radicali Italiani, che da anni portano avanti una battaglia per la legalizzazione. Buongiorno, Cappato. Buongiorno a voi. Vogliamo salutare anche uno che magari quell'approccio sui talebani lo conosce molto bene, è stato dal 2002 al 2010 direttore esecutivo dell'ufficio ONU contro il narcotraffico, quello di Vienna, è Antonio Maria Costa, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, onorato di essere con voi. Allora Costa, intanto che ne pensa? E questa potrebbe essere una soluzione? Roberti lo dice, così si toglie l'arma economica al narcotraffico internazionale, legalizziamo la marijuana per esempio. È una dichiarazione di resa particolarmente pericolosa e lo dico con conoscenza di fatto. Qui abbiamo il responsabile della lotta alla droga che dice non possiamo fare nulla, legalizziamola. Io rispondo, ma cercate di fare qualcosa. Io non ce l'ho col carabiniere o col poliziotto che arresta o non arresta un trafficante. Quello che mi preoccupa è che abbiamo un sistema bancario globale che ricicla centinaia di miliardi di dollari provenienti dal narcotraffico. Abbiamo avuto i casi della Citibank, abbiamo avuto il Deutsche Bank, abbiamo avuto le grandi banche inglesi, americane, anche in Europa, che non sono mai state sanzionate per aver collaborato in maniera scandalosa con i trafficanti riciclando i loro poteri. Allora, se questo procuratore mi viene a dire arrendiamoci perché non sappiamo fare il nostro lavoro, allora è giusto dire cambiamo procuratore però, scusi, o cambiamo regista, ma qui non si sta cercando di lottare contro la droga, si punisce solo il ragazzino in treno mi sente, e lo si mette in prigione. decisione perché a 10 gradi. Però Costa, mi sente Oscar secondo. Giannino no, che cioè, solo fare... a difesa del fatto che Roberti non ha detto quello che ha detto lei. Roberti ha detto qui c'è una schizofrenia, cioè il procuratore antimafia ha detto c'è una schizofrenia del sistema, nel senso che moltissime delle poche risorse che abbiamo in termini umani e strumentali sono rivolte alla lotta ai sequestri, ai procedimenti per le droghe, la marijuana, e molto meno invece il contrasto è volto alle cose che alimentano davvero poi il più dei narcotraffici, cioè il pesante e così via. Non ha molto senso questo squilibrio di risorse, visto che ne abbiamo poche, quindi di qui legalizzare le droghe leggere, perché altrimenti facciamo dire al procuratore antimafia cosa che non si è mai sognato di dire, non è la resa incondizionata, però lui fa un ragionamento sull'equilibrio delle forze in campo per concentrarsi laddove però, c'è cioè, il rischio Costa vero. Dice date più risorse, questo mi sembra di poter sintetizzare, no, se no cioè, sembra fate... un mondo nel quale le grandi banche fanno narcotraffico, i procuratori antimafia alzano la bandiera bianca, non è così. No, Costa, lei dice invece mettiamo tutti gli strumenti a disposizione per combattere in tutti i modi il traffico di droga, questo, leggere, pesanti, questa è la sua posizione. Non dovete imputarmi cose che non ho detto. Io ho detto che coloro che sono incaricati di lottare alla droga facciano il loro mestiere. Se non lo fanno, d'accordo, però non vengono a dire non riusciamo, perciò arrendiamoci e legalizziamo. Io sto semplicemente dicendo quello. Purtroppo a livello globale la lotta alla droga non è presa seriamente, quindi dobbiamo aprire un nuovo capitolo. Io do il benvenuto a questo dibattito e al dibattito in Parlamento. Bisogna capire cosa fare con il futuro della droga, però non partiamo dal presupposto che coloro che devono combattere la droga non fanno il loro lavoro e quindi dobbiamo riregistrarlo. Qui c'è un problema serio di mancanza di onestà tra i politici, voi politici, Cappato, tra i banchieri, tra i responsabili della finanza che non si impegnano adeguatamente e perciò permettono di dilagare di un problema che è diventato un problema di salute pubblica molto più. Cappato vuole rispondere a questo, visto che ha tirato in ballo anche i politici e rispondendo anche a Gratteri, che ne fa una questione anche etica. Da stato etico, sì. Dice non possiamo liberalizzare ciò che fa male. L'argomentazione di Gratteri è, scusatemi, evidentemente, uso una parola buona, inconsistente, ovviamente, perché c'è una miriade di comportamenti non positivi sul piano della salute umana. Pensiamo alle droghe legali, alcol, tabacco, stiamo parlando di 90.000 morti l'anno in un caso, 30.000 morti nell'altro. Nessuno si sogna nemmeno di proibirle, perché lì sarebbe la mafia moltiplicata per tre. Quindi dire che lo Stato non può consentire qualcosa che fa male è proprio un concetto da Stato etico che mi stupisce. No, ma soprattutto ipocrita, perché lo Stato lo fa e ci fa fior di pacchi di miliardi. Ma ci mancherebbe altro che lo Stato dovesse andare a proibire tutti i comportamenti che vanno contro la salute umana. Potrei fare esempi ridicoli, non li faccio, lasciamo perdere questa argomentazione. Dico però a Costa, attenzione, i politici hanno la responsabilità di proporre delle politiche. Allora, non è che da qualche anno stiamo sperimentando la lotta contro le droghe, c'è chi riesce, c'è chi non riesce, diamo più risorse a chi riesce e cerchiamo anche di aiutare chi non riesce. Qui è dal dopoguerra ad oggi che si è scatenata a livello globale una guerra che ha coinvolto eserciti. Pensiamo agli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America sulla guerra contro le droghe cosiddetta, che poi è diventata guerra contro le democrazie, guerra contro le popolazioni. Basta vedere com'è ridotto il Messico, che è praticamente in guerra civile per colpa del proibizionismo sulle droghe. Bene, dopo tutti questi decenni di miliardi e miliardi di euro che sono stati spesi, il risultato, non in alcuni posti, dappertutto, il risultato è stato un fallimento totale, con la crescita del consumo, dell'abuso e del terrorismo internazionale e delle mafie internazionali. Questo è uno degli argomenti che anche Roberti credo ha portato in Parlamento, cioè a dire, visto che tutte le politiche finora hanno fallito, perché non provare questa, Cappato? Il lavoro dei tribunali, le carceri sono intasate dai procedimenti che riguardano lo spaccio, il piccolo spaccio, il consumo. è una cosa che distrugge il rispetto della legge nel nostro paese, perché sottrae delle risorse immense alla polizia per occuparsi dei crimini odiosi che creano l'insicurezza nelle nostre città, in una situazione dove è evidente come con le droghe legali, che sono pericolosissime, per esempio alcol e tabacco, l'unica strada che può sperare di funzionare è la prevenzione, l'informazione. Ma se immaginate che cosa succederebbe, anzi basta vedere cosa è successo con Al Capone negli Stati Uniti, se noi applicassimo il proibizionismo anche sull'alcol e sul tabacco, sarebbe un disastro anche sul piano sanitario, figuriamoci poi su quello della sicurezza e della lotta contro il crimine. Effettivamente sull'obiezione però alcol e tabacco costa, voglio dire, cioè perché allora se non dobbiamo rendere legale ciò che fa male, l'alcol non farà certo bene, le sigarette e il tabacco non faranno certamente bene, o no, Costa? Ma io sorrido alle argomentazioni di Marco Cappato, perché lui fa l'analogia ovviamente tra le cosiddette droghe legali, tabacco e alcol, e quelle illegali. Bene, a livello globale, Marco ha riferito alle cifre e alle statistiche nazionali, il tabacco uccide 6 milioni di persone ed è consumato dal 30% della popolazione, 6 milioni di morti. L'alcol uccide 3 milioni di persone ed è consumato dal 25% della popolazione. Le droghe uccidono un numero spaventoso, però limitato, cioè 500.000 persone. Perché? Perché contrariamente a quello che i radicali vanno in giro dicendo, il consumo di droghe è limitato. E perché è limitato? È limitato perché c'è una sanzione, magari anche penale o amministrativa, ma soprattutto psicologica, nell'opinione pubblica, che limita il consumo di droghe. Beh, dovremmo limitare anche il tabacco, a livello allora globale, al 3-4%. Costa, dovremmo limitare il tabacco, allora, secondo lei, anche l'alcol? No, io sto dicendo quello. No, glielo chiedo. Io sto dicendo che legalizzando le droghe, nella maniera in cui nella quale è stata proposta, noi rischiamo di portare i livelli di tossicodipendenza agli stesse percentuali del tabacco e dell'alcol, e quindi aumentare quel già disastroso numero di morti per droga, 500.000 di persone, ripeto, portare ai livelli del tabacco e dell'alcol, cioè creando una epidemia che dovrebbe, e secondo me sarebbe un errore. Cioè, quello che ci sta dicendo Costa è che se noi legalizzassimo le droghe, le porteremmo il numero di morti a livello del tabacco e dell'alcol. Bravo, hai detto il giusto. Esattamente quello che io sento. No, cioè, vedo un Oscar genio contrito un po', no? No, sono argomentazioni perché, che non... Ma no, perché i piani sono così diversi dall'impostazione di Costa rispetto a quello di chi ritiene di... Non ha, io dico ritiene di avere degli argomenti per l'antiproibizionismo sulle droghe leggere. La risposta è no, non ce l'hai, punto. Non ce l'hai, perfetto, non ce l'hai. Quindi viva lo Stato che decide lui su quali veleni fa pacchi di miliardi e quelli vanno bene. Perché la risposta di Costa è non mi far dire questo. Ah! La risposta è, intanto quello va bene. No, la mia risposta in termini culturali è, non mi convince lo Stato che decide lui le sostanze. Uno, perché io difendo intanto la mia libertà. E questo capisco che il controargomento può essere, ma no, che fai? Lo Stato ha un dovere, la salute pubblica è costituzionalizzata. Lo capisco perfettamente. Infatti, siccome lo capisco, avendo letto davvero quello che ha detto Roberto in Parlamento, Roberti fa un ragionamento che dice dobbiamo concentrare le risorse sulle sostanze che fanno più male e fanno più soldi alle reti, cioè le droghe pesanti. Ha ragione o ha torto? Secondo me, logicamente, i fatti e ciò che conosco mi impongono di dire che Roberti ha ragione. Non è uno che mette sullo stesso piano sostanze che hanno gli stessi effetti di dipendenza e di morti. Perché mi pare che attribuire questo a Roberti sia sbagliato. Dopodiché dice, qui c'è un problema di intasamento della giustizia e delle carceri. Dice Costa, non mi riguarda, vuol dire che non sapete fare il vostro mestiere. No, chi si occupa di giustizia deve occuparsi di questo e fa bene a dire allo Stato e ai contribuenti, dove le mettiamo le risorse scarse, più in questo o più in quello? Mettiamole dove c'è la maggior tutela della costituzionalizzazione della salute, cioè contro le droghe pesanti e non contro la marijuana. Mi sembra un ragionamento logico. Di qua una legalizzazione che non è per l'autoproduzione. Roberti ha detto cose entrando nel merito. A me che si liquidi tutto dicendo questo è uno che vuol far morire milioni di persone perché non sa fare il suo mestiere, mi sembra inaccettabile. Però evidentemente sono io che non so ragionare, sono io che sono un individualista che non sopporta lo stato paternalista, però la mia modestissima funzione qui è di dire agli ascoltatori: attenti, andate a leggervi cosa ha detto Roberti, fatevi le vostre idee se chi propone la depenalizzazione delle droghe leggere sia un nemico dell'umanità che vuole sterminarla a milioni. Tra l'altro la depenalizzazione è cappato, mi sembra che ci sia un disegno di legge, lei non sia in Parlamento ovviamente, ma c'è un disegno di legge in Parlamento che è cosiddetto bipartisan, no? Quando si utilizzano queste espressioni. Ecco, a che punto è, visto che sicuramente... Allora, è calendarizzata per il 25 luglio l'avvio della discussione. Devo dire, non abbiamo alcuna fiducia nel Parlamento, non così per un pregiudizio, ma perché io per esempio sull'eutanasia vedo che i procedimenti vengono calendarizzati e poi vengono tolti dal calendario. Però dovrebbe iniziare la discussione. Noi, un po' per sfiducia e un po' per fare pressione, stiamo comunque raccogliendo le firme su una proposta di legge di iniziativa popolare un po' più avanzata di quella che c'è in Parlamento. Si trovano tutte le informazioni su legalizziamo.it, proprio per evitare che poi il dibattito parlamentare rimanga ostaggio dei giochini tra i partiti, perché il punto qui è di organizzare un grande dibattito anche sui mezzi di comunicazione, perché altrimenti i dibattiti parlamentari rischiano di essere così un po' appesi nel nulla. Io sono convinto che, proprio perché non sono passati pochi anni ma decenni di politiche proibizioniste e di fallimento delle politiche proibizioniste, è il momento di cogliere l'occasione di questo dibattito parlamentare con un grande dibattito di società su quello che sta succedendo in conseguenza del proibizionismo sulle droghe. Perché Roberti ha detto anche un altro paio di cose, secondo me molto importanti, che i parlamentari dovrebbero cogliere con grande attenzione. Diceva Costa del livello di consumo. Beh, attenzione, qui si parla di 3 milioni di consumatori di cannabis, quindi non stiamo parlando di un comportamento che riguarda una sparuta minoranza, che francamente meriterebbe lo stesso rispetto proprio per una questione di principio di libertà e responsabilità individuale, ma comunque stiamo parlando di un fenomeno sociale diffuso che non può trovare come risposta la repressione, i carabinieri, i tribunali. Non può essere questa la risposta. L'altra cosa che ha detto Roberti è: i sequestri di cannabis sono 100 volte di più di quelli di eroina e cocaina, perché questo è un meccanismo fatale di funzionamento della struttura repressiva. Si va là a colpire dove è più facile colpire, e si va a colpire il comportamento di persone che nulla dovrebbero avere a che fare con la criminalità, con il carcere, con la giustizia. Dovrebbero essere lasciate libere, responsabili e anche informate con la prevenzione, con i meccanismi di prevenzione, su i pericoli del loro comportamento, punto. Allora, i parlamentari oggi hanno una grande responsabilità, perché non stanno discutendo di qualcosa di nuovo, stanno discutendo di una situazione dove la California, per esempio, che ha ormai di fatto legalizzato ampiamente, è l'unico momento di difficoltà e di crisi portato ai cartelli messicani dei narcos, è il fatto che una gran parte del consumo di cannabis in California non è più di derivazione nelle mani dei cartelli messicani. Anche questo, se è il punto. No, certo, anche se lo stesso Cappato ci dice, insomma, non nutre molta fiducia in quello che succederà in Parlamento. Tra l'altro, nel ringraziarvi Antonio Maria Costa e Marco Cappato dei radicali, devo dire, Oscar, sono 5 gli agenti già morti a Dallas, dove dei cecchini hanno sparato, soprattutto prendendo di mira, hanno preso anche un civile, ma hanno soprattutto preso agenti di polizia. 5 morti, ma ci sono altri feriti. Ed era la veglia appunto per queste due vittime afroamericane da parte della polizia. Esatto. Dai, ci fermiamo qui, è stata una puntata vibrante. Ma perché i temi sono, come vedi, molto spaccano gli italiani. Invito ultimo da parte nostra: freddezza, ragionate, sottoponete le vostre radicali convenzioni e odi a dei sane docce fredde e al dubbio. Dai, ci sentiamo lunedì. Ciao.